Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Le vicende che hanno coinvolto negli ultimi mesi alcune banche italiane, oggetto dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Pier Ferdinando Casini, pongono in primissimo piano il tema dell'educazione finanziaria, vale a dire di come accrescere il livello, per la verità molto scarso nel nostro paese, della conoscenza dei prodotti finanziari che ci vengono proposti ogni volta che decidiamo come investire i nostri risparmi. Non è la prima volta, per la verità, che il nostro paese si trova ad affrontare una questione così rilevante. Se andiamo indietro nel tempo, non possiamo non ricordare nei primi anni dell'Unità d'Italia il clamoroso crack della Banca Romana. Uno scandalo che mise in luce un insieme di corruzione, malaffare e commistioni tra affari e politica. Era il 1893. Alla fine del 1892 era in discussione alla Camera la proroga di 6 anni da concedere ai diversi istituti di emissione cui il neonato Regno d'Italia aveva affidato la concessione di stampare moneta per conto dello Stato. Emersero gravi irregolarità che condussero all'istituzione di una commissione di vigilanza parlamentare. Il 20 gennaio 1893 la commissione stabilì che la Banca Romana aveva abusato della concessione affidatale. Era stata autorizzata a stampare 60 milioni di lire, ma al momento dell'ispezione risultò che ne aveva messi in circolazione 113. Lo scandalo fu enorme. Vennero arrestati il governatore della banca, Bernardo Tanlongo, e il cassiere, Barone Lazzaroni. Emerse che la banca finanziava politici e affaristi, stampando biglietti falsi. Da qui la decisione di porre in liquidazione la banca e di accelerare l'iter di approvazione della legge che dal 1 gennaio 1994 istituì la Banca d'Italia. Emersero le responsabilità di decine tra parlamentari e nomi di spicco dell'alta finanza romana. Le somme erano servite anche a finanziare le campagne elettorali di diversi politici dell'epoca, a partire dallo stesso Giolitti. Si trattò di uno dei più clamorosi scandali del XIX secolo. Ma torniamo alle vicende di oggi. Ne parliamo questa sera con Anna Maria Lusardi, che dirige il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito presso il Ministero dell'Economia. Buonasera, professoressa, e benvenuta. Buonasera a lei, grazie. Sul Sole 24 Ore del 29 novembre, in concomitanza con l'avvio di 12 numeri monografici settimanali che il Sole 24 Ore ha deciso di dedicare proprio al tema dell'educazione finanziaria, lei ha sostenuto che le indagini più recenti ci dicono che l'Italia si caratterizza per un livello di alfabetizzazione finanziaria molto basso e anche più basso rispetto ai paesi con economie simili. Ecco, vogliamo un po' approfondire questo concetto? Beh, i dati hanno raccontato questa storia e diciamo questo livello di conoscenza finanziaria basso da parecchio tempo, quindi abbiamo adesso molte indagini campionarie, abbiamo fatto tanti studi, alcuni anche con confronti internazionali, e devo dire che tutti i dati sono concordi nel raccontare, insomma, questa storia, che è una storia di alfabetizzazione finanziaria. Mi piace dire questo termine perché significa conoscenza dei concetti di base, è piuttosto basso, molto diffuso tra l'altro tra la popolazione. Ecco, c'è un tema che riguarda un po' le scelte appunto di investimento. La precondizione che parte appunto anche dai lavori del vostro importante comitato è che se si ha conoscenza di quello che viene proposto si ha anche la capacità di scegliere. Si possono dare, come dire, alcuni consigli ai risparmiatori? Sì, si possono dare consigli, e il primo però è proprio questo, che la conoscenza finanziaria conta e paga, nel senso che chi ha maggiore conoscenza finanziaria è capace di scegliere meglio e è anche capace di scegliere meglio il consulente, quindi ha magari capacità di, se non scegliere direttamente, chiedere le domande o scegliere la persona che può scegliere per lui. Poi abbiamo messo, diciamo, dei semplici consigli anche sul nostro sito Ita Edufin, che si rivolgono proprio, diciamo, a queste regole base di prendersi cura dei suoi soldi, i propri soldi, quindi di non dimenticarsi di loro, di prenderci cura dei soldi così un po' come ci prendiamo cura di noi, di sempre chiedere bene, di confrontare i prodotti e soprattutto di ricordarci di questa relazione rendimento-rischio, ovvero qualcosa che rende di più, purtroppo ha anche più rischio. Non c'è niente di facile nella finanza. Certo, una delle regole base, ad esempio, che tutti dovrebbero consigliare è quella anche di differenziare le scelte di risparmio, anche, come dire, seguendo il vecchio detto inglese che non si mettono tutte le uova in un solo paniere, insomma, che secondo me è una regola di buon senso. È una regola di buon senso ed è una regola importantissima nella finanza. C'è, in realtà, il rischio è ovunque e dappertutto quando si fanno scelte finanziarie, però c'è anche questa possibilità di ridurlo appunto con una diversificazione. Ecco, diversificare quindi è il consiglio che possiamo dare ai nostri ascoltatori senz'altro. Ecco, ma come si può concretamente contribuire ad aumentare il livello di conoscenza dei risparmiatori? Cioè, ad esempio, facendo proprio una campagna di sensibilizzazione, ed è anche quello che il Comitato si prefigge. Sì, sicuramente una campagna importante, da una parte per anche sensibilizzare verso l'importanza di avere questi concetti base. La finanza è entrata nella nostra vita di tutti i giorni ed è per questo che dobbiamo avere questo strumento, queste conoscenze oggi per poter scegliere un po' più serenamente. Un'altra iniziativa che abbiamo in cantiere come comitato è proprio questo nuovo portale di informazione e anche di educazione finanziaria, quindi qualcosa a cui tutte le persone possono rivolgersi per ricevere informazioni e anche per informarsi di più e anche per ricevere un po' di conoscenza, di potersi anche, diciamo, poter anche aumentare un po' la loro conoscenza finanziaria. C'è un passaggio del suo articolo pubblicato sul Sole 24 Ore in cui si dice che appunto tutti noi siamo chiamati a compiere ogni giorno scelte finanziarie piccole e grandi, o piccole o grandi, che hanno implicazioni sul nostro star bene. L'ignoranza non è un'opzione, dunque essere ignoranti non paga. Sì, io questo lo dicevo proprio per questo, cioè oggi non si può scegliere di non sapere, certo. Ci sono troppe scelte e noi siamo coinvolti in queste scelte, le facciamo tutti i giorni e tutte hanno conseguenze, anche questo. Magari il dimenticare i nostri soldi, non prenderci cura dei nostri soldi, non risparmiare ad esempio fino a quando si è giovani, quindi si ha questo tempo davanti a noi per poter anche far crescere i nostri soldi, non sapere bene come investire i nostri soldi hanno tutte conseguenze e non possiamo appunto pensare che accettare questo basso livello di stabilizzazione finanziaria sia una scelta, nemmeno. Tutti i paesi, molti paesi europei ad esempio, hanno proprio fatto una strategia nazionale proprio per l'educazione finanziaria. Io credo che anche l'Italia non possa permettersi di fare altro. Ecco, forse può essere utile, professoressa, dire ai nostri ascoltatori chi fa parte di questo comitato che lei presiede. Poi ricordo, lei insegna negli Stati Uniti, quindi si divide tra le due parti dell'oceano. Sì, io sono un professore che vive negli Stati Uniti, ma che ha un cuore e una cittadinanza italiana, quindi sì. Con questo comitato sono per metà del mio tempo in Italia e felice di essere qui, ma anche molto felice che in questo comitato ci sia veramente tutte le istituzioni e anche i ministeri che sono particolarmente importanti per l'educazione finanziaria, quindi che nel ministero non è soltanto ad esempio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma anche il Ministero dell'Educazione, anche il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Quindi abbiamo ben 4 ministeri a far parte di questo comitato. Abbiamo tutte le autorità di vigilanza, dalla Banca d'Italia, Consob, Covip e IVAS. Questo anche per ricordare che il nostro mandato non è soltanto di educazione finanziaria, ma anche di educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Quindi 3 temi estremamente importanti. Abbiamo anche l'Associazione dei consumatori e anche OCF, quindi gli intermediari finanziari e i consulenti finanziari. Quindi abbiamo intorno a questo tavolo, in cui nelle nostre riunioni molto frequenti, la possibilità veramente di poter discutere, ma anche di poter programmare e definire una strategia di educazione finanziaria che possa promuovere e cambiare le statistiche che vediamo adesso in Italia. Bene, infatti è l'auspicio che anche noi formuliamo. La ringraziamo molto, professoressa, per essere stata con noi questa sera e insomma ad averci aiutato anche a entrare un po' più nei meandri, e quindi cerchiamo insieme di aumentare tutti il livello di alfabetizzazione finanziaria del nostro paese. Grazie ancora, professoressa, buona serata. Grazie a lei e davvero questo messaggio, lavoriamo insieme, e grazie anche al Sole 24 Ore per questa bella iniziativa di educazione finanziaria. Bene, buona serata. Grazie.